c'è anche sì, il microfono. Sì. Intanto, buongiorno a tutti. Mi è stato detto che voi siete quasi tutti studenti del corso triennale. Io non so quanti di voi abbiano seguito un corso, un pezzo di corso di archivistica o laboratorio. C'è qualcuno che ha già delle conoscenze di archivistica? Lei? Qualcuno c'è, insomma, sì. Allora, io ho pensato un po', insomma, ieri, l'altro ieri, come impostare il discorso che farò oggi, e pensavo di affrontare diversi argomenti, ma mi sono reso conto che per ristrettezze inevitabili di tempo non era possibile parlare di tutto, di tutti i problemi che sono attualmente sul tappeto per quanto riguarda la disciplina archivistica. Quindi mi è sembrato più utile darvi soprattutto alcune linee di orientamento, consigli, indirizzi su come muoversi nel, in questo dedalo, come l'avete chiamato voi, in questo reticolo degli archivi della rete archivistica italiana e i presupposti di conoscenza che bisogna avere per sapere quali tipologie documentarie troveremo in quali istituti. Quindi, in sostanza, io vorrei parlarvi oggi di alcuni punti che potrebbero essere riassumibili in questo modo. Come è organizzato quello che potremmo chiamare sistema archivistico italiano, anche se poi proprio non si tratta propriamente di un sistema, ma per amor di sintesi chiamiamolo così. Come è organizzato il sistema archivistico italiano? E in secondo luogo gli strumenti di corredo per la consultazione dei fondi archivistici che trovate negli istituti che conservano archivi e i problemi un po' di questi strumenti di corredo, il rapporto tra archivi e istituzioni attraverso un paio di esempi semplicemente e le questioni delle lacune che si rinvengono nella documentazione archivistica. Lacune ben presenti anche per la documentazione contemporanea. Non so se avrò tempo invece di accennare semplicemente alla questione dei limiti, legali alla consultabilità dei documenti, che vale soprattutto per il XX secolo. Eventualmente magari lo vedremo dopo nella fase delle domande, non so se qualcuno fosse interessato. Vediamo un po' come va, insomma, il tempo che ho a disposizione, che abbiamo a disposizione. Allora, su questa questione del cosiddetto sistema archivistico italiano, io direi che è possibile ripartire i diversi istituti che nel nostro paese conservano rilevanti fonti archivistiche utili agli studi storici, ma non solo, in tre grandi gruppi. Tre grandi gruppi sulla base di una differenziata tutela che lo Stato riserva a questi istituti. Abbiamo quindi da un lato la rete degli archivi di Stato e dell'archivio centrale dello Stato, abbiamo poi gli archivi storici degli enti pubblici e poi abbiamo un multiforme, variegato universo di persone fisiche e giuridiche private, enti ecclesiastici, fondazioni, famiglie, imprese, che conservano archivi storici. Allora, è chiaro che questa tripartizione ha un rilievo eminentemente formale, un rilievo formale e giuridico, E non è l'unica ripartizione possibile, perché se ne possono proporre altre basate, non so, sul tipo di fonti conservate nei diversi archivi. Però nell'ambito del discorso che faccio oggi, questa tripartizione ha una sua utilità perché è la chiave principale per comprendere a grandi linee quali tipologie di archivi sono appunto conservati in quali istituti. E quale livello di tutela e protezione tali archivi ricevano da parte degli apparati pubblici. Peraltro è stato osservato, qui voglio richiamare la vostra attenzione, che la presenza dei fondi archivistici in diversi istituti di conservazione o presso i rispettivi soggetti produttori non è casuale, ma dipende dall'ordinamento giuridico istituzionale che ogni Stato si dà. E quindi anche l'organizzazione degli archivi, osservare come è fatta l'organizzazione degli archivi nei diversi paesi, ci dice molto dell'assetto istituzionale dei diversi paesi, per cui degli Stati, diciamo, federali avranno un'organizzazione archivistica diversa da un paese come l'Italia che si caratterizza come uno Stato nazionale, pur con tutte le sue imperfezioni, uno Stato unitario, diciamo. Allora, vediamo la prima di queste tipologie, di questi gruppi, la rete degli archivi di Stato, che oggi è articolata appunto tra archivi di Stato che hanno sede in quasi ogni capoluogo di provincia. Le province non so se sono 111 attualmente, ma gli archivi di Stato sono un po' meno, però sono intorno a 100, e in un archivio centrale dello Stato che ha sede a Roma. Allora, questa rete è quella che è una tradizione più consolidata, e che ha contribuito anche attraverso l'operato degli archivisti che vi lavoravano al maggiore sviluppo di questa disciplina che è l'archivistica. Nel corso dell'Ottocento e del Novecento, una disciplina che ha una, diciamo, origine eminentemente pratica. Una prima disciplina giuridica relativa all'organizzazione degli archivi di Stato, che oggi dipendono dal Ministero dei Beni Culturali, forse lo sapete, e una prima diffusione di questa rete degli archivi di Stato. Prende piede negli anni 60 dell'Ottocento, dopo l'Unità d'Italia. Quindi è un processo in qualche modo parallelo al processo di cosiddetto nation building, di costruzione amministrativa e istituzionale dello Stato. Erano 15 gli archivi di Stato nei primi anni 60 dell'Ottocento e avevano sede, questo è interessante, quasi sempre nei medesimi edifici che avevano ospitato nella prima metà dell'Ottocento dei grandi archivi di concentrazione, dove i governi degli stati preunitari, quindi i governi della Restaurazione in sostanza, avevano collocato i principali fondi archivistici prodotti dalle magistrature di antico regime, cioè dalle magistrature cinquecentesche, seicentesche, settecentesche, precedenti alla dominazione napoleonica. Allora, questi istituti, chiamiamoli archivi governativi, avevano nomi diversi, comunque istituti di concentrazione, eminentemente archivi governativi di stati della Restaurazione, archivi di concentrazione in quanto erano archivi che conservavano diversi fondi archivistici, notate il doppio uso della parola archivio, prodotti da magistrature nel corso di una lunga plurisecolare attività. Questi istituti, già negli anni 30-50 dell'Ottocento, svolgevano una funzione storico-culturale, parallelamente alla necessità di soddisfare le esigenze amministrative e pratiche dei governi. Esigenze amministrative quali la ricerca di precedenti per l'azione amministrativa, precedenti documentari, o la dimostrazione di titoli di proprietà per i sudditi. Quindi quello che voglio dirvi è che al di là della importantissima cesura istituzionale che è data dall'Unità d'Italia, no? Databile al 1861, anche se poi l'annessione di Roma avviene nel settembre del 1870, al di là di questa cesura si notano quindi delle continuità. Continuità ravvisabili in un uso delle fonti archivistiche già negli anni precedenti all'Unità d'Italia, che risponde insieme alle esigenze dell'erudizione e della ricerca storica, oltre che alle esigenze giuridico-amministrative. Quindi risponde, l'uso di questi archivi, di queste fonti negli archivi di concentrazione risponde già a queste due esigenze negli anni precedenti all'unità. Quindi la compresenza di una valenza storico-culturale e giuridico-amministrativa negli archivi, peraltro è una caratteristica che connota gli archivi anche nel tempo presente e sarà così anche nel futuro. Cioè gli archivi, per quanto beni culturali, oggi considerati beni culturali, sono una tipologia un po' particolare, specifica di bene culturale, perché appunto non sono solo beni culturali o non sono usati solo come beni culturali, soprattutto nella fase iniziale della loro diciamo, funzione. Però, ritornando a questo discorso, diciamo, sul passaggio dal periodo della Restaurazione all'Unità d'Italia, questa consapevolezza di una duplice valenza, storico-culturale e giuridico-amministrativa, era ben presente anche nel ceto di governo degli anni 60 e primi anni 70 dell'Ottocento. Infatti, in quel periodo c'è un dibattito se affidare questa nascente rete degli archivi di Stato al Ministero della Pubblica Istruzione o al Ministero dell'Interno, perché ovviamente una diciamo, dipendenza gerarchica dal Ministero della Pubblica Istruzione avrebbe in qualche modo accentuato o valutato, fatto emergere di più le caratteristiche culturali del patrimonio documentale. La scelta, peraltro non unanimemente condivisa, è stata quella di attribuire invece la rete degli archivi di Stato al Ministero dell'Interno. Un ministero che in quegli anni era il principale dicastero dei governi dell'Italia liberale. Il Presidente del Consiglio quasi sempre deteneva anche la carica di Ministro dell'Interno. Quindi il Ministero dell'Interno era un ministero eminentemente politico. Quindi si riconosceva agli archivi evidentemente anche una funzione politica, oltre che un'importante funzione giuridico-amministrativa e ovviamente anche di memoria storica. Però le prime due esigenze, quelle in qualche modo di controllo politico e l'esigenza giuridico-amministrativa, evidentemente hanno la meglio se il dibattito di quegli anni sfociò nell'attribuzione della rete degli archivi di Stato al Ministero dell'Interno. Questa è stata una scelta di lunga durata, come per molti altri aspetti della storia amministrativa e istituzionale del nostro paese. Scelte compiute nell'età liberale sono state scelte di lunga durata, che hanno scavalcato l'esperienza del fascismo, delle due guerre mondiali e sono arrivate fino ai decenni dell'età repubblicana. In sostanza è nel 1975, quando viene istituito il Ministero dei Beni Culturali, nel 1975 che si decide di trasferire l'amministrazione degli archivi di Stato a questo nuovo Ministero dei Beni Culturali. Ovviamente a quel punto dal Ministero della Pubblica Istruzione venivano anche sottratte le competenze sulla tutela degli altri beni culturali, no? cioè i beni storico-artistici, i beni architettonico-monumentali e la tutela delle zone vincolate dal punto di vista paesaggistico. Erano attribuzioni del Ministero della Pubblica Istruzione, poi demandate al Ministero dei Beni Culturali. Già con questi brevi riferimenti vedete come l'aspetto storico-istituzionale e i mutamenti del quadro normativo incidono sulle fonti archivistiche. Per cui i percorsi di ricerca in archivio sono inevitabilmente, diciamo, hanno esiti migliori se vi è una conoscenza dell'evoluzione di queste norme e del mutare di queste norme, perché le norme incidono sull'organizzazione amministrativa, sull'organizzazione degli apparati statali e non solo, e gli archivi sono prodotti da questi apparati statali, per cui il fatto che troviamo degli archivi presso un ufficio, presso un altro ufficio, presso un ministero, presso un altro ministero, è, come dire, il sedimento ultimo, il risultato ultimo del mutare del quadro giuridico istituzionale di un paese. Allora, alcune brevi notizie su, diciamo, molto sintetico su, quindi, quali sono le strade che dovete seguire per orientarvi in questa rete per la documentazione contemporanea, cioè la documentazione ottocentesca e novecentesca. Allora, il punto di riferimento principale è che gli archivi di Stato, che abbiamo visto che hanno sede in ogni capoluogo di provincia, conservano i documenti degli stati preunitari. Quindi per i documenti dei primi 60 anni dell'Ottocento, se vogliamo dire che l'età contemporanea inizia con la dominazione napoleonica, ma non tutti sono d'accordo, però oggi noi nella lezione di oggi, diciamo, non ci interessano molto questi dibattito su quando inizia la storia contemporanea. Diciamo, convenzionalmente, diciamo, accettiamo che inizi con la fine della dominazione napoleonica. Allora è ovvio che se cercate i documenti dell'età della Restaurazione dovete rivolgervi agli archivi di Stato e soprattutto agli archivi di Stato che hanno sede in quelle città che prima dell'Unità d'Italia erano sedi di capitali, erano sedi di capitali di stati preunitari, di stati italiani. Quindi Lucca, Firenze, Milano, Genova. Genova però viene dopo con la restaurazione aggregata al Regno di Sardegna, Torino, Napoli, Palermo e in parte anche Venezia, perché Venezia è sede anche di importanti uffici dell'amministrazione del Lombardo-Veneto, per quanto sia un regno unitario. Per il periodo successivo all'Unità d'Italia, invece, troverete negli archivi di Stato i versamenti, chiamiamoli così, cioè dei fondi o degli spezzoni di fondi archivistici di uffici periferici dello Stato italiano. Quindi troverete i fondi delle diverse prefetture, delle diverse questure, non sempre. Dell'intendenza di finanza, in alcuni casi dei provveditorati agli studi, degli uffici del Genio Civile, una rete di uffici periferici dello Stato italiano non nasce completa, bella e pronta già negli anni 70-80 dell'Ottocento, si viene, come dire, infittendo nel corso dei decenni. È solo con il ventennio fascista che si ha per quasi ogni ministero una corrispettiva rete periferica di uffici di quel determinato ministero. per i decenni precedenti, per gran parte del periodo dell'Italia liberale, non sarà così, cioè non tutti i ministeri hanno una rete periferica completa. Alcuni non ce l'hanno nemmeno. Non so, per esempio, il Ministero degli Esteri tuttora non mi risulta che abbia degli uffici periferici, diciamo, ha delle rappresentanze diplomatiche all'estero, ma non in Italia, ovviamente. Invece, se vorrete, soprattutto in futuro, fare ricerca, diciamo, su gli organi più politici dello Stato italiano, diciamo su quegli organi da cui si sono dipanate le decisioni più importanti, sia di politica in senso stretto, sia di decisioni amministrative, cioè dell'amministrazione del paese, allora a quel punto dovete fare ricerca sui fondi archivistici prodotti dagli uffici centrali di questi ministeri, non dagli uffici periferici. E gli archivi degli uffici centrali, diciamo, si trovano all'archivio centrale dello Stato, che ha sede a Roma. L'archivio centrale dello Stato, quindi, a differenza degli archivi di Stato, non conserva archivi preunitari, ma conserva solo archivi, dell'amministrazione italiana, cioè dal 1861 in poi. E di questa amministrazione conserva gli archivi degli organi centrali. Peraltro, anche sotto questo aspetto, bisogna tenere presente, che la maggior parte dei ministeri ha versato nel corso dei decenni le proprie carte all'archivio centrale dello Stato. Vi sono però, alcuni organi, che hanno degli archivi storici separati. La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno degli archivi storici separati. Questo è dal 1971. In realtà anche prima conservavano la maggior parte della propria documentazione, con l'eccezione di alcune inchieste parlamentari che sono state versate all'archivio centrale, per esempio l'inchiesta Iacini sulle condizioni dell'agricoltura. Fine anni 70 dell'Ottocento, mi sembra, è conservata all'archivio centrale dello Stato, ma è documentazione parlamentare. Recentemente è stato istituito anche l'archivio storico della Presidenza della Repubblica. Ovviamente la Presidenza della Repubblica nasce con la Repubblica Italiana, per cui vi saranno carte in linea di massima solo successive o a partire dal 1946. Le carte invece dell'amministrazione della Real Casa, cioè le carte dell'amministrazione del monarca, del re d'Italia, e quello che poi diventa il ministero della Real Casa, e queste sono effettivamente conservate all'archivio centrale dello Stato. Bisogna dire, con notevoli lacune comunque. Vi sono poi due ministeri che hanno versato l'uno per nulla all'archivio centrale e l'altro solo in parte. Mi riferisco al Ministero degli Esteri, che tradizionalmente ha avuto sempre un archivio storico separato, il Ministero degli Affari Esteri. Non c'è nulla del Ministero degli Affari Esteri e dell'Archivio Centrale dello Stato, e il Ministero della Difesa. Allora, il Ministero della Difesa, come forse saprete, nasce nel 1947. Prima c'erano tre dicasteri militari: c'era il Ministero della Guerra, che è quello più importante, che conservava fra l'altro le carte dell'amministrazione dell'esercito, il Ministero della Marina, e in epoca fascista viene istituito anche il Ministero dell'Aeronautica. Questi tre ministeri nel 1947, l'Italia è un paese sconfitto, è un paese che ha dismesso, diciamo, le proprie ambizioni coloniali e di grande impero. È un paese che poi si avvia attraverso la sua carta costituzionale anche a sancire attraverso l'articolo 11 l'uso della forza militare come strumento di difesa, e quindi è un po' quasi inevitabile che da questi tre ministeri vi sia un accorpamento in un unico ministero, il Ministero della Difesa, appunto. Che però in realtà per tutto il periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale non ha versato quasi nulla all'archivio centrale dello Stato. Quindi noi all'archivio centrale dello Stato abbiamo diversi fondi dei precedenti ministeri che si occupavano di amministrazione militare, ma non abbiamo quasi nulla delle carte del Ministero della Difesa, quello successivo appunto al 1947. È interessante, notare anche che questo archivio centrale dello Stato a cui vi ho accennato in questi minuti viene aperto agli studiosi in tempi abbastanza recenti, nel 1960. Quindi esisteva anche prima. Cioè esisteva dal 1875 un archivio del Regno. L'archivio del Regno era l'antenato dell'attuale archivio centrale dello Stato, però aveva sede presso l'archivio di Stato di Roma, e in sostanza la documentazione che si andava formando, producendo da parte degli uffici centrali dello Stato, veniva via via versata in depositi dislocati in diverse parti della capitale e non era nei fatti accessibile agli studiosi. Cioè gli studiosi per tutto, diciamo, il periodo che va dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 50 del Novecento non hanno potuto attingere alle fonti prodotte dallo Stato italiano, almeno a livello centrale. Quindi degli studi che si sono potuti basare su una ricca messe di serie documentarie, serie archivistiche relative al Stato italiano, all'Italia liberale e al ventennio fascista, hanno potuto essere avviate nei fatti a partire soprattutto dagli anni 60, cioè a partire dall'apertura agli studiosi dell'Archivio Centrale dello Stato. Allora, vi dicevo poi di queste altre, diciamo, due tipologie di reti archivistiche, chiamiamole così, anche se nel terzo caso non si può parlare di rete, ma di istituti archivistici in qualche modo individuabili sulla base della loro natura giuridica. E allora il secondo gruppo a cui mi richiamavo è questo degli archivi degli enti pubblici. Parliamo ancora qui, ancora una volta, di archivi storici, cioè della parte storica dell'archivio prodotta nel corso del tempo dai diversi enti pubblici. Lo Stato esercita una tutela inferiore nei confronti degli archivi degli enti pubblici rispetto a quella che esercita nei confronti degli archivi degli uffici dello Stato. Perché gli uffici statali, quindi organi giudiziari come tribunali, corti d'appello o uffici dei diversi ministeri, versano periodicamente 40 anni, più o meno dopo 40 anni dall'esaurimento degli affari documentati nelle carte, versano periodicamente la propria documentazione più risalente nel tempo, più vecchia, negli archivi di Stato, come abbiamo visto. A norma di legge invece gli archivi degli gli enti pubblici a norma di legge dovrebbero istituire le separate sezioni d'archivio, cioè dovrebbero conservare la propria documentazione più risalente nel tempo, più vecchia, conservarla e istituire delle separate sezioni d'archivio che sono degli archivi storici, cioè sono il corrispettivo presso gli enti pubblici di quello che presso gli uffici dello Stato sono gli archivi di Stato. Questo quadro normativo non ha origini ottocentesche, non ha origini ottocentesche come la rete degli archivi di Stato, ma ha un'origine molto più recente. In estrema sintesi si può dire che un avvio di tutela da parte dello Stato nei confronti degli archivi degli enti pubblici si ha con la legge sugli archivi del 1939. È la prima legge sugli archivi, che perché prima esistevano dei regolamenti nazionali, la prima legge sugli archivi del 39 come vera e propria legge, ed è qui che si parla di archivi degli enti pubblici. Se andate a vedere i regolamenti archivistici del 1875, del 1902, del 1911, non trovate mai questa espressione, archivi degli enti pubblici. Si parla casomai di archivi di corpi morali o di enti morali. Come mai? Beh, il motivo è molto semplice, perché la parola stessa ente pubblico, che nel linguaggio giuridico, nel linguaggio degli addetti ai lavori di quegli anni, non esisteva. Non si parlava di enti pubblici. Per corpi morali, il termine corpi morali ci si riferiva, oltre che agli enti territoriali, quali comuni e province, ci si poteva riferire alle camere di commercio, alle accademie culturali, alle casse di risparmio di fondazione pubblica. Tutti questi erano definiti enti morali o corpi morali. Il termine ente pubblico entra nel linguaggio burocratico e giuridico negli anni 20, a seguito del diffondersi di questa nuova strana creatura che è l'ente pubblico. Ente pubblico come un apparato che è distinto dallo Stato o dagli uffici statali, che svolge comunque delle funzioni pubblicistiche e ha alcuni poteri autoritativi, cioè esercita alcuni poteri anche contro la volontà dei destinatari, dei cittadini. La diffusione degli enti pubblici, forse lo saprete, avviene in larga misura e con grande forza negli anni 20 e soprattutto 30 del Novecento. Ed ecco perché troverete solo nella legge del 39 riferimento a questi archivi. Questo cosa ci dice? Questo ci suggerisce che anche le norme giuridiche hanno uno spessore storico, anche la terminologia usata dalle norme giuridiche ha uno spessore storico, così come la terminologia che troverete in tutti gli altri documenti, cioè nei documenti, così le pièce d'archive, i documenti amministrativi, i contratti, qualunque documento che non sia un provvedimento normativo, le parole usate hanno uno spessore storico negli uni, ma anche nelle norme giuridiche. Allora, per questi enti pubblici, dicevamo, a norma, diciamo, di legge, prima la legge sugli archivi del 63, oggi il codice dei beni culturali, questi devono istituire i propri archivi storici. C'è da dire che non sempre l'hanno fatto, non sempre così, soprattutto per nel caso degli enti territoriali, degli enti pubblici territoriali. In Italia abbiamo 8.000 comuni circa, e solo una minoranza di questi comuni ha istituito un archivio storico. Vi sono alcuni grandi enti pubblici non territoriali, che oggi non sono più enti pubblici, ma lo erano fino a poco fa, per esempio le Ferrovie dello Stato, che non avevano un archivio storico. Avrebbero dovuto avercelo, ma non ce l'avevano. Grandi istituti previdenziali, che hanno svolto una importante attività che ancora dovrà essere adeguatamente studiata per il corso del Novecento, come l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale o l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro, INPS e INAIL, non hanno, quanto ne so io, però potrei sbagliarmi, ma mi sembra che non abbiano un archivio storico. Ecco, vedete, la mancanza anche di questi archivi storici condiziona inevitabilmente i percorsi della ricerca storiografica, per cui la presenza o l'assenza di istituti culturali appositamente dedicati ad accogliere gli studiosi, dedicati allo svolgimento della ricerca di ogni tipo, della ricerca storica soprattutto, condiziona i percorsi di questa ricerca e i risultati storiografici. Per cui l'assenza non solo degli archivi, perché in alcuni casi gli archivi in parte sono sopravvissuti, ma l'assenza di luoghi istituzionali dove svolgere la ricerca, di luoghi fisici dove svolgerla, sale di studio attrezzate, personale dedicato, orari di apertura, cose molto banali ma molto concrete che condizionano la ricerca e che quindi condizionano in ultima analisi anche i risultati storiografici, che si basano sull'assenza o presenza, quindi in prioritario sulla presenza, di determinate fonti archivistiche. Un altro aspetto su cui voglio richiamare la vostra attenzione è quello dello scarto o eliminazione controllata, legale, dei documenti. I documenti possono nel corso del tempo andare perduti per cause accidentali, per cause naturali, alluvioni, incendi, in questi ultimi decenni soprattutto alluvioni a causa degli sconvolgimenti climatici a cui stiamo assistendo, e questo è un problema allarmante anche per i beni culturali, una questione allarmante per i beni culturali. Però oltre a queste cause accidentali abbiamo anche delle cause volontarie di eliminazione dei documenti. Queste cause volontarie possono essere o delle distruzioni dolose, cioè fatte al di là di quanto prevedono le norme o decisioni legittime delle autorità governative, o decisioni determinate dalle norme di legge. Quindi interventi di origine dolosa fatti al di fuori di queste norme, e interventi invece regolamentate dal quadro giuridico. Oggi il codice dei beni culturali del 2004 e precedentemente la legge archivistica del 63, per esempio, contemplano questo processo di scarto dei documenti. Ecco, proprio l'esempio dello scarto controllato, cioè legale, di una parte della documentazione, che è un processo di selezione per cui una parte dei documenti viene considerata di minor rilievo amministrativo o storico, viene periodicamente eliminata e una parte invece viene conservata senza limiti di tempo, questo processo si svolge in modo diverso per gli archivi dello Stato e invece per gli archivi degli enti pubblici. Perché per gli archivi degli uffici statali vi sono delle commissioni di sorveglianza composte anche da archivisti di Stato che intervengono all'interno dei diversi uffici statali prima del versamento delle carte negli archivi di Stato. Non so se è chiaro. Ci sono delle commissioni composte da diverse persone, tra cui funzionari dell'ufficio ma anche degli archivisti di Stato, che a livello provinciale e a livello centrale decidono un po' della sorte delle serie archivistiche, dei documenti, quelli da conservare, quelli da eliminare, prima del versamento negli archivi di Stato. Questo per la documentazione statale. Per la documentazione degli enti pubblici, invece, la decisione sullo scarto è demandata all'ente stesso. cioè è l'ente pubblico stesso che decide quali serie documentali scartare e quali non scartare. Però questa decisione viene autorizzata o non autorizzata dalle soprintendenze archivistiche. Soprintendenze archivistiche che sono gli organi di vigilanza sugli archivi degli enti pubblici. Badate, non sugli enti pubblici, ma sui loro archivi, solo sui loro archivi. Ecco, questo è, come vedete, quindi è un quadro abbastanza complesso, che non caratterizza tutti i paesi europei. Vi sono alcuni paesi come il Regno Unito dove non esiste una rete di uffici di un organo governativo che a livello periferico svolga un'attività di vigilanza su archivi non statali. Questa è una caratteristica, diciamo, del nostro paese, e fra l'altro c'è da dire che queste soprintendenze archivistiche, che svolgono quindi attività di vigilanza, la svolgono non solo nei confronti degli archivi degli enti pubblici, ma anche nei confronti degli archivi di quel terzo gruppo che avevo enunciato all'inizio, che avevo indicato all'inizio, cioè di questo multiforme universo di archivi privati. Però qui il livello di tutela, cioè di protezione da parte del Ministero dei Beni Culturali attraverso i suoi organi, è ancora inferiore rispetto agli archivi degli enti pubblici. Quindi c'è un processo, come dire, di diminuzione progressiva di gradi via via inferiori di protezione e tutela nei confronti del bene culturale, no? Cui è maggiore per gli archivi dello Stato, vedi le commissioni di sorveglianza, è minore per gli enti pubblici, perché lì le soprintendenze si limitano a autorizzare o non autorizzare gli scarti, ed è ancora minore per gli archivi del innumerevole mondo di persone fisiche e giuridiche private che producono documentazione oggi. Nei fatti, la tutela nei confronti degli archivi privati viene svolta solo sugli archivi privati che vengono dichiarati di notevole interesse storico. Quindi la maggior parte degli archivi privati non sono soggetti a qualche forma di protezione sulla conservazione della loro documentazione, diciamo, più vecchia, più risalente nel tempo, da parte di qualche apparato pubblico. Questa forma di protezione interviene solo attraverso un provvedimento amministrativo che si chiama dichiarazione di interesse storico particolarmente importante. Dunque, quindi si tratta di una sorta di vincolo, no? Di vincolo che lo Stato pone nei confronti della proprietà privata, un vincolo che può caratterizzare altri beni culturali, un vincolo che tende un po' a garantire una fruizione pubblica di questi beni che pur rimangono di proprietà privata. Tenete presente comunque che archivi di origine privata non sono conservati solo presso i privati, ma a volte troviamo archivi di origine privata anche negli archivi di Stato. Non è un bisticcio di parole. Che cosa significa questo? Significa che ci sono moltissimi archivi privati che sono conservati tuttora da privati o da fondazioni di diritto privato o da società commerciali, e quindi sono al di fuori del recinto degli archivi di Stato, e vi sono però all'interno degli archivi di Stato anche degli archivi che in origine erano privati e hanno una conformazione tipicamente privata, ma che per decisione del soggetto privato stesso sono stati devoluti allo Stato. Devoluti come? O attraverso una donazione o un comodato d'uso o una vendita anche in alcuni casi, oppure eredità, cioè la decisione da parte del privato di lasciare allo Stato in eredità il proprio archivio. Quindi vi sono, troverete in molti casi presso gli archivi di Stato anche degli archivi familiari, per esempio di famiglie patrizie, di famiglie nobili, che sono state donate o lasciate in deposito o lasciate in eredità allo Stato e quindi conservate negli archivi di Stato. In altri casi troverete documentazione di archivi di famiglia ancora presso i discendenti di queste famiglie. Anche per la documentazione d'impresa, per la documentazione prodotta dalle società commerciali, vi sono molti casi in cui questa documentazione la troverete o presso le imprese stesse. Per esempio la Fiat ha organizzato già da molti anni un proprio archivio storico, la Pirelli ha recentemente organizzato un proprio archivio storico, per quanto molto depauperato, cioè non troverete moltissimo del sedimento documentario della storia della Pirelli. In altri casi archivi di impresa sono confluiti invece in archivi di fondazioni che sono diventati come degli archivi territoriali di impresa. È il caso della Fondazione Ansaldo a Genova, e che è stato riconosciuto dalla Soprintendenza Archivistica per la Regione Ligure come archivio territoriale di impresa. Cosa significa? Significa che è un istituto privato che ha raccolto nel corso del tempo gli archivi prodotti dall'Ansaldo, che era diventata un ente pubblico economico, in sostanza era una società che svolgeva attività di impresa di proprietà dello Stato. A partire dagli anni 70 la parte storica dell'archivio è stata versata in un istituto a sé stante, che è stato l'archivio Ansaldo. Questo archivio storico Ansaldo nel corso degli ultimi decenni si è, come dire, autonomizzato dalla sua fondazione originaria e ha via via accolto archivi anche di altre imprese, fino ad assumere questa veste di archivio territoriale di impresa, cioè che raccoglie soprattutto le serie archivistiche prodotte dal gruppo Ansaldo, però archivi anche di altre imprese che hanno operato nell'area di Genova e del Ponente Ligure, che è un importante polo dell'industria pesante, come sapete. Quindi questo per dire che queste tipologie di archivi privati sono assai differenziate. Tra gli archivi privati, fra l'altro, nell'universo degli archivi privati non bisogna nemmeno dimenticare gli archivi della Chiesa, gli archivi della Chiesa Cattolica. Ora non ho tempo per dilungarmi su questo, però anche gli archivi della Chiesa Cattolica, diciamo, che sono stati in qualche modo agganciati alla normativa statale attraverso un'intesa stipulata tra lo Stato, tra il Ministero dei Beni Culturali e la Conferenza Episcopale Italiana nel 2000. Questa intesa è stipulata sulla base del nuovo concordato del 1984. Un'intesa che ha stabilito che lo Stato, attraverso le soprintendenze archivistiche, potesse svolgere la sua attività di vigilanza anche sugli archivi della Chiesa Cattolica. Prima, fino agli anni 80, non era così. Lo Stato si è sempre più o meno disinteressato degli archivi della Chiesa Cattolica. Dunque, vi sono poi sempre tra gli archivi privati nel mondo delle fondazioni, non solo fondazioni che conservano archivi di impresa, ma anche fondazioni che conservano archivi di importanti personalità della politica oppure archivi di partiti politici. Non so, pensiamo alla Fondazione Einaudi a Torino, che conserva l'importante archivio di Luigi Einaudi, ma anche una parte dell'archivio, se non mi sbaglio, di Francesco Saverio Nitti, di Agostino Rocca, amministratore delegato dell'Ansaldo, per l'appunto, ma anche della Dalmine, se non mi ricordo male, l'Istituto Sturzo a Roma, che conserva gli archivi della Democrazia Cristiana e archivi di importanti esponenti di spicco della Democrazia Cristiana, esponenti di governo dell'Italia Repubblicana, cioè erano come dire, uomini politici che avevano un ruolo fondamentale nella Democrazia Cristiana, ma occupavano anche dei ruoli di governo. Questo perché la Democrazia Cristiana è stato il partito che ha tenuto le redini del governo del paese dal 46 almeno fino al 1992. La Fondazione Gramsci invece a Roma, ma vi sono anche delle fondazioni, degli istituti federati in altre parti d'Italia. Fondazione Gramsci conserva l'archivio del Partito Comunista Italiano. Fondazione Turati a Firenze invece una parte degli archivi del Partito Socialista. Quindi, insomma, un mondo assolutamente differenziato. Allora, cosa si può dire? Si può dire che nel corso degli ultimi decenni è aumentato l'uso che i ricercatori e gli studiosi fanno di queste fonti archivistiche che si trovano al di fuori della rete degli archivi di Stato. Quindi si è ampliata la disponibilità di fonti archivistiche, soprattutto per il Novecento, utilizzabili dagli studiosi, dai ricercatori. E questo è un bene, è assolutamente un bene. Però non dobbiamo sottovalutare che l'esito, il futuro di queste fondazioni, di questi istituti, non è per nulla stabilito una volta per tutte, non è per nulla certo, perché queste fondazioni vivono in parte sui finanziamenti diciamo erogati dal Ministero dei Beni Culturali, oppure su finanziamenti speciali a volte erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come l'Istituto per l'Enciclopedia Italiana, e in parte vivono su il flusso di finanziamenti di privati, di fondazioni private o di società private, e, diciamo, un fenomeno che è una sorta di mecenatismo contemporaneo. Il flusso di questi finanziamenti di origine pubblica o di origine privata è assolutamente condizionato dalla situazione economica e politica del paese. Quindi non è detto, e nei fatti sta avvenendo così, che questo finanziamento si mantenga inalterato nel corso del tempo. Cioè un pericolo che corrono queste fondazioni, che raccolgono importanti archivi storici ormai, è proprio quello di un rallentamento nel rubinetto, nel rubinetto dei finanziamenti, nel rubinetto delle risorse monetarie che li tengono in piedi, in sostanza, che permettono di avere del personale che tiene aperto le sale di studio e di pagare il costo di questi edifici dove sono conservati gli archivi. Allora, vediamo per chiudere l'ultima questione, però qui potrò andare, siccome mi sono un po' attardato, potrò andare inevitabilmente un po' accenni. ossia la questione degli strumenti di corredo per l'accesso ai fondi archivistici e il rapporto tra archivi e istituzioni. La legge archivistica del 63, la cui redazione si deve a alcuni funzionari che avevano una notevolissima preparazione archivistica e al tempo stesso giuridica, e mi riferisco a Claudio Pavone, che forse conoscete, e a Piero D'Angiolini. Dicevo, questa legge conteneva una disposizione che a occhi non esperti può passare quasi inosservata e che invece in qualche modo è fondamentale per rendere disponibili in tempi brevi negli archivi di Stato a ricercatori o amatori i fondi versati dagli uffici, dai diversi uffici dell'amministrazione statale. Ossia, questa disposizione dice che gli organi giudiziari amministrativi versano i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni, versano negli archivi di Stato, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. È questo unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione che è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché questo versamento delle sere archivistiche, al tempo stesso degli strumenti che ne garantiscono la consultazione, che presso gli archivi correnti erano schedari, elenchi, rubriche, registri di protocollo, il versamento contestuale delle serie archivistiche e di questi strumenti di corredo ha permesso in molti casi di mettere a disposizione del pubblico, cioè degli studiosi, la documentazione archivistica senza dover predisporre degli inventari o degli elenchi da parte degli archivisti di Stato. È chiaro il concetto? Ossia, nel caso di archivi che originariamente erano ben organizzati presso le amministrazioni produttrici, archivi ben organizzati significa archivi in cui le serie documentarie si formavano secondo un'organizzazione in qualche modo predeterminata e vi erano appunto quelli che chiamiamo strumenti di corredo, cioè degli strumenti che permettevano agli stessi impiegati dell'epoca di andare a cercare i fascicoli che interessavano per la trattazione delle pratiche, i cosiddetti precedenti d'ufficio. Come si faceva a trovare questi fascicoli? Lo si faceva attraverso questi strumenti di corredo per la documentazione archivistica finché questa era usata dall'ufficio, era usata dall'amministrazione attiva. Quindi dei repertori dei fascicoli, per esempio, che sono come assimilabili in qualche misura degli inventari, dei repertori dei fascicoli, delle rubriche, degli schedari organizzati per nome di ente o per nome di persona, schedari che rinviano a un rispettivo fascicolo, a un rispettivo numero di fascicolo. Ecco, tutto questo insieme di strumenti di corredo, se versati contestualmente alla documentazione e se l'archivio era ben organizzato e funzionante, hanno permesso di utilizzare questa documentazione in sede di archivio di Stato, cioè in sede di archivio storico, senza dover predisporre degli ulteriori strumenti di corredo da parte degli archivisti di Stato. Ecco, questo è un elemento importante. Dove invece questi strumenti di corredo coevi, chiamiamoli coevi, cioè della stessa epoca dell'archivio, non sono stati versati, lì si sono posti, diciamo, più problemi, perché è stato necessario organizzare degli elenchi o degli inventari da parte degli archivisti di Stato. E questo voleva dire rinviare l'apertura dei fondi archivistici agli studiosi, oppure nei casi peggiori la documentazione è rimasta priva di qualsiasi strumento di corredo. I casi peggiori perché grandi masse documentali prive di strumenti di corredo di fatto ne impediscono la consultazione, ne rendono impossibile la consultazione. Ecco, allora alcuni esempi, facciamo alcuni esempi. Non so, l'importante serie del gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato, è tuttora consultata da parte degli studiosi attraverso le rubriche redatte dai funzionari che si occupavano dell'archivio all'interno del gabinetto della Presidenza del Consiglio. La serie della segreteria particolare del Duce, cioè un ufficio servente della persona di Mussolini, in sostanza, che opera dal 1922-23 fino al 43-44, questo archivio molto utilizzato per gli studi sul fascismo è diciamo, consultato tuttora all'archivio centrale attraverso gli schedari compilati all'epoca quando l'archivio stava a Palazzo Venezia. Casi invece opposti, cioè in cui la consultazione della documentazione è resa ardua dalla mancanza di strumenti di corredo. La direzione, la Imperial Regia Direzione delle Pubbliche Costruzioni di Venezia, del governo di Venezia, che è conservata presso l'Archivio di Stato di Venezia, documentazione che copre un periodo che va più o meno dall'inizio dell'Ottocento, perché ci sono dei precedenti napoleonici. 1805 quindi, fino al 1866, perché Venezia, come sapete, è stata diventata Regno d'Italia nel 1866. Questo importante fondo è di fatto scarsamente utilizzabile da parte degli studiosi perché nel corso dei decenni una evidentemente cattiva gestione, una cattiva gestione dell'archivio di Stato di Venezia non ha prodotto la redazione di un benché minimo succinto, sintetico strumento di corredo per l'accesso a queste carte. Queste carte sarebbero sì consultabili attraverso le rubriche redatte dai funzionari del Lombardo-Veneto, anni 30, 40, 50 dell'Ottocento. Però questi strumenti di corredo, rubriche e registri di protocollo non sono in sala di studio. Se fossero in sala di studio, così come in parte avviene per il gabinetto delle Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Archivio Centrale dello Stato, se si trovassero in sala di studio accessibili agli studiosi, allora si potrebbe supplire a questa mancanza di strumenti di corredo recenti con l'uso di questi strumenti di corredo antichi, ma così non è. E le rubriche e i registri di protocollo sono nei depositi insieme alle carte. In più non ci sono elenchi di consistenza in archivio di Stato, non ci sono inventari e quindi il povero studioso si deve muovere un po', come dire, sulla base di tentativi via via sperimentati su diversi spezzoni di archivio, cioè su sondaggi episodici e casuali della documentazione. Se considerate il fatto che i pezzi d'archivio consultabili presso l'archivio di Stato sono limitati, 3 o 4 al giorno, voi capite come uno studioso che arriva, che non è di Venezia, ma che arriva da fuori, dalla città lagunare, dovrebbe riservarsi perlomeno un mese di tempo a Venezia spendendo un sacco di soldi per poter accedere adeguatamente alle carte di questo fondo. Allora, vedete come alla fine i problemi, il quadro istituzionale normativo influenza l'accesso alle fonti e in ultima istanza influenza anche i percorsi storiografici. Ma anche le vicende, come dire, anche di buona o cattiva amministrazione della rete deputata a gestire gli archivi storici, anch'essa ha un peso nella fertilità nel buon esito delle ricerche di studio. Quindi elementi, diversi elementi incidono quindi sull'attività di ricerca nostra e vostra. Un ultimo aspetto, e poi veramente chiudo, su cui vorrei chiamare l'attenzione, è il rapporto irrinunciabile, sempre presente tra archivi e storia delle istituzioni. Ossia il fattore istituzionale e il complesso delle norme che operano in un determinato contesto storico, incidono in modo preponderante sulle vicende degli archivi e quindi sulla stessa presenza o assenza di specifiche serie archivistiche e sulla tipologia della documentazione via via prodotta. Questo è un principio da tenere sempre presente che vale sia per l'età contemporanea sia per le epoche storiche precedenti, soprattutto anche per l'età moderna. Allora, siccome non ho tempo, mi spiego solo attraverso, spiego questo concetto di ordine generale attraverso due esempi. Due esempi tratti da, diciamo, una situazione di conservazione delle carte. Propria di alcuni momenti della storia contemporanea. Due piccoli esempi. Allora, il caso della documentazione delle corti d'assise. Le corti d'assise, che hanno origine già nel Regno di Sardegna, mi sembra vennero istituite nel Regno di Sardegna subito dopo, nel periodo anche diciamo, contemporaneamente alla entrata, all'avvio dello Stato costituzionale, cioè regolato dallo Statuto Albertino, cioè risale la loro istituzione al 1848-49, queste corti d'assise come organi giudiziari specializzati, che peraltro esistono tuttora le corti d'assise, vengono ereditate dal Regno d'Italia, dallo Stato italiano quindi. E sapete come per molti aspetti lo Stato italiano abbia recepito diversi istituti propri del Regno di Sardegna. Allora, queste corti d'assise nell'Italia liberale giudicavano, oltre che i reati che prevedevano come pena l'ergastolo, anche quelli di cosiddetta maggiore pericolosità sociale. Quali reati erano compresi in questo novero di cosiddetti reati di maggiore pericolosità sociale? Allora, i reati di bancarotta. È interessante questo fatto perché la bancarotta era un fenomeno che incideva, incide fortemente sulla fiducia nei rapporti commerciali, quindi era considerato un reato di grande pericolosità sociale, perché incide direttamente sulla velocità e sulla efficacia dei rapporti economici. In uno stato che, diciamo, caratterizzato dal, come era l'Italia negli anni 70, 80 dell'Ottocento, dal libero scambismo, 70 più che 80, e comunque dall'importanza dell'attività, diciamo, della figura del commerciante, il reato di bancarotta era un reato di estrema gravità sotto questo profilo. Quindi, allora, bancarotta, poi cosa c'era ancora? Il vilipendio alle istituzioni costituzionali, per esempio l'offesa alla persona del monarca, ma anche il vilipendio alle supreme, ai supremi organi costituzionali. Quindi, non so, il vilipendio al governo o al Consiglio di Stato, l'incitamento dell'odio tra le classi sociali. Questa è una novità introdotta dal codice Zanardelli, il codice mi sembra penale del 1890. Allora, questi reati, considerati maggiore pericolosità sociale, erano attribuiti alla competenza delle corti d'assise. Se noi non sappiamo, ecco l'elemento di storia istituzionale, se noi non sappiamo che, o non abbiamo questo presupposto di conoscenza, che nel 1927 una parte di questi reati viene assorbita, viene attribuita, come voglio dire, viene attribuita al nuovo Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che è una diciamo, delle novità del nascente regime fascista, l'istituzione del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Se noi non sappiamo che è quello che è diciamo, assimilabile al reato di incitamento all'odio tra le classi sociali o il vilipendio agli organi costituzionali, viene attribuito al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, non capiamo perché, quando consultiamo le carte delle corti d'assise, non capiamo perché i fascicoli che trattano questi, vicende, questi temi, il perseguimento di questo tipo di reati, non ci siano più a partire dal 1927. Magari siamo erroneamente portati a pensare che non ci siano più perché è diminuito l'incidenza di questa fattispecie penale. Oppure, non so, attribuiamo magari l'assenza di queste carte ai motivi più disparati. Invece dobbiamo sapere che è una competenza che è stata sottratta alle corti d'assise per essere attribuita al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Quindi non le troveremo più, per esempio, in diversi archivi di Stato, perché le corti d'assise, i loro archivi sono conservati dagli archivi generali dei tribunali, quindi poi versati negli archivi di Stato, ma li troveremo presso i fondi del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, conservati oggi all'Archivio Centrale dello Stato. Quindi ecco un esempio di correlazione tra vicenda normativa, storico-istituzionale e vicenda archivistica e concreta presenza di determinate serie archivistiche. Vabbè, dai, mi fermo qui, magari non so perché ormai che dice? Le 12, perché mi è un po' Sì, avanti. volendo, insomma, se ci sono domande, Non so, se volete posso ancora andare avanti 5 minuti, se no magari boh, mi fermo qui e eventualmente dico qualcosa non so, dopo, vediamo, così. se ci, direi, se ci Sì. sono domande, cioè ben venga comunque il dialogo, altrimenti Sì. possiamo. Non so, spero che questi diversi aspetti che ho cercato di chiarire siano stati effettivamente abbastanza chiari. Sì, spero di essere in grado di rispondere, No, tra l'altro. cioè, allora, in primo luogo, forse varrebbe la pena che si ribadisse diciamo, il periodo di chiusura degli archivi, cioè da quando, entro quanti anni un archivio, soprattutto diciamo, la documentazione statale, Sì. sostanzialmente pubblica, può essere vista. Proprio gli obblighi temporali, perché poi ci Sì. sono determinate situazioni, diciamo, legate a certe documentazioni sensibili, che Sì. cosa bisogna fare. Ho sentito i 40 anni, avevi già fatto un'indicazione, però Sì, insomma, questa cosa effettivamente. Tra l'altro io pensavo di parlare anche di questo e magari è giusto che dia una. sì, Sì, probabilmente è giusto che parli anche di questo perché incide sulla documentazione contemporanea, soprattutto del sì, no, infatti, Novecento, perché in larga misura. sicuramente è possibile che qui ci siano anche persone che hanno interesse, insomma, svolgere delle ricerche in un periodo forse un po' più recente, perché diciamo che grosso modo anche su un soggetto particolare come l'archivio del Segreto Vaticano, insomma, del Vaticano, che sono 39 si trova, 45, poi, però quella è una situazione particolare, Sì. per cui, però insomma diciamo che dagli anni 60 in avanti è un po' più complicato per una serie di vicende che poi magari molto più chiarito. Questa è la prima cosa. Poi c'è una curiosità. dello Stato ce ne sono conservati in un archivio di Stato, quindi l'archivio di Stato di Parma. Ecco, magari qualche... Adesso non le date timore di farmi domande, anche eventuali chiarimenti, voglio dire, perché adesso, a parte i giovani tra voi, giovani che hanno già delle un'esperienza di archivio, ha seguito magari lezioni archivistiche, effettivamente per gli altri la disciplina è abbastanza una novità, forse. Sì. La documentazione accumulata dai gli organismi proposti al Ministero dell'Ordine Pubblico, non so, Carabinieri, Guardia di Finanza, rispondono a, cioè sono tenuti a versare da qualche parte o c'è un sistema più, non so, anche per esempio come facevi prima il professore, magari dati sensibili hanno una, un processo diverso da documentazione Ho capito. Cioè sia per quanto riguarda la disponibilità di queste fonti archivistiche, esatto, sia per quanto riguarda i limiti all'accesso, cioè limiti alla loro fruizione, limiti legali, insomma. Esatto. Ma se non ci sono altre domande possiamo cominciare. Sì. Ma rispondere, non so. Allora, no, stavo pensando come organizzare. Vediamo allora perché la prima domanda in qualche modo si lega anche alla terza, no? Cioè i limiti alla libera consultabilità delle carte. Ci sono dei limiti, oltre che dei limiti di fatto. I limiti di fatto alla consultabilità delle carte sono determinati dall'evento che determinati archivi o sono andati dispersi o non sono stati ancora versati negli archivi storici. Ci sono però anche dei limiti legali alla consultazione delle carte per la documentazione più recente. Questi limiti legali in realtà esistono in tutti i paesi, sia nei paesi diciamo democratici, diciamo sintesi democratici, sia nei paesi a regime più o meno autoritario. I limiti legali alla libera consultabilità, dicevo, riguardano le carte piuttosto recenti, sono dei limiti temporali e investono due ambiti, due interessi tutelati dalle norme giuridiche, due interessi, diciamo. Da un lato l'interesse alla difesa della sicurezza dello Stato, chiamiamolo così, e dall'altro la tutela della riservatezza delle persone, soprattutto la tutela della sfera più intima delle persone. Io adesso non voglio, diciamo, queste norme in realtà sono più complesse nell'applicazione di quanto non sembri a una semplice lettura degli articoli del codice che sono dedicati ad esse, gli articoli 122 e 127 del codice dei beni culturali. In estrema sintesi si può dire che oggi vi sono dei limiti alla libera consultabilità che tendono a proteggere la sfera più intima delle persone, che coprono 70 anni dalla data dei documenti, 70 anni, che è un termine piuttosto lungo. Questa sfera più intima è stata individuata a partire dal 1999 e oggi nel codice dei beni culturali è stata individuata nelle questioni che relativi, cioè nei documenti che riguardano documenti che contengono informazioni relative alle condizioni di salute della persona, alle sue abitudini sessuali e alle situazioni più strettamente familiari. Nelle situazioni più strettamente familiari si suppone che possono esserci anche, non so, le condizioni di particolare disagio economico di una persona all'interno della sua famiglia, anche se questo non è specificamente indicato dalla legge. Peraltro è possibile accedere a serie archivistiche che conservano questi tipi di documenti anche prima dello scadere dei 70 anni attraverso un'autorizzazione oggi rilasciata dal Ministero dell'Interno, però c'è l'intervento di una commissione consultiva, però in sostanza questa autorizzazione alla consultazione anticipata di carte che contengono questo tipo di notizie prima del settantennio può verificarsi, agisce effettivamente solo per le carte conservate negli archivi di Stato o al limite negli archivi storici degli enti pubblici. È difficilmente applicabile invece per gli archivi conservati in fondazioni private. Poi vi dico subito dell'altro versante, cioè quello della sicurezza dello Stato, ma diciamo ancora una cosa su questi limiti, diciamo, dei 70 anni. Per quanto riguarda gli archivi privati, cioè prodotti da soggetti privati, e qui rispondo in parte alla domanda che mi facevi tu, il privato nel momento in cui dona, deposita o lascia in eredità un proprio archivio allo Stato, e quindi questo va in un archivio di Stato, può porre la condizione della non consultabilità degli atti per 70 anni. A prescindere che questa documentazione contenga cosiddetti dati super sensibili, cioè questi che abbiamo richiamato, abitudini sessuali, condizioni di salute e situazioni strettamente familiari. A prescindere da questo, il privato può dire: io verso, cioè io dono o lascio in deposito oppure lascio in eredità allo Stato il mio archivio o l'archivio che avevo per qualche diritto di proprietà, però pongo questa condizione: queste carte non possono essere consultate per 70 anni. Il limite però dura 70 anni, cioè non si può andare oltre. Ecco, per quanto riguarda allora l'archivio del Cardinale Casaroli, che fra l'altro era firmatario della revisione del concordato, no? Quello a cui mi sono richiamato, la revisione concordataria del 1984, l'archivio del Cardinale Casaroli, io non so se sia stata posta questa condizione, ecco. Se non è stata posta, in realtà vale la norma generale, vale la disciplina generale. Quindi questo archivio, se presente nell'archivio di Stato di Parma, dovrebbe essere consultabile. C'è da dire però che purtroppo da 2 anni a questa parte, cioè dal 2008, la normativa è stata molto peggiorata, cioè il quadro normativo è stato molto peggiorato da un improvvido emendamento al codice dei beni culturali. Questa è una caratteristica, un po' una bizzarria, se volete, tipicamente italiana, no? Ossia è entrata in vigore una norma che è assolutamente irrazionale, che adesso vi dico. Questa norma in alcuni casi viene applicata e in altri casi no. Io dico, nei casi in cui non viene applicata, fortunatamente non viene applicata, perché è una norma assolutamente illogica. Però non possiamo fare a meno di notare come questo sia un paese in cui le norme valgono fino a un certo punto. Allora, questa non applicazione della norma, cioè questa resistenza alla sua applicazione, fortunatamente in questo caso è un bene, perché la norma è assolutamente illogica, ossia è una norma che prevede che le carte versate negli archivi di Stato non siano consultate fino al momento in cui temporalmente non dovrebbero essere versate. Cioè, abbiamo detto che il versamento delle carte degli uffici dello Stato, dai diversi uffici dello Stato, avviene 40 anni dopo l'esaurimento degli affari a cui i documenti si riferiscono. Quindi, se noi stessimo alla lettera della legge, noi dovremmo trovare negli archivi di Stato documenti che arrivano fino più o meno al 1960. Perché dico 60 e non 70? Perché 40 anni dopo l'esaurimento degli affari non vuol dire 40 anni dalla data dei documenti, ma è un termine un po' più spostato. È un termine variabile, quindi potrebbe essere l'inizio anni 60, potrebbe essere gli anni 50, a volte potrebbe essere anche gli anni 40. Comunque, mediamente, perché dipende dall'esaurimento dell'affare a cui si riferiscono i documenti. Mediamente comunque vale questo termine dei 40 anni dell'esaurimento degli affari. Però fino al 2008 un conto erano i termini normali di versamento, un conto era la consultabilità delle carte. Che cosa vuol dire? Vuol dire che molti archivi di Stato, e soprattutto l'archivio centrale dello Stato, conservavano documenti anche più recenti rispetto all'ultimo quarantennio. Perché? Perché un'altra norma della legge prevedeva che gli archivi di Stato possono ricevere carte anche precedenti all'ultimo quarantennio, se c'è un pericolo di dispersione o di danneggiamento. Quindi nei fatti l'archivio centrale dello Stato e gli archivi di Stato e molti archivi di Stato hanno ricevuto documentazione anche più recente. Per esempio, presso l'archivio centrale dello Stato già negli anni 60, metà anni 60, fine anni 60, c'erano quasi tutte le più importanti serie documentarie degli organi del regime fascista. Non erano passati 40 anni, però queste serie documentarie c'erano. Allora non erano passati 40 anni, oggi ovviamente sì, ma allora no. E fortunatamente la legge allora, e così è stato fino al 2008, non legava i termini normali di versamento alla consultabilità delle carte, per cui nel momento in cui queste carte erano negli archivi di Stato erano consultabili, con l'eccezione di questi casi di, diciamo, di dati super sensibili la riservatezza delle persone. E purtroppo dal 2008 in poi è stato stabilito che la consultabilità, come dire, i termini normali di consultabilità si applicano dal momento in cui le carte dovrebbero essere versate, quindi dopo un quarantennio. E questo è assolutamente illogico, perché ma illogico in sostanza perché in realtà la consultabilità per motivi di studio è prevista anche per le carte che ancora si trovano presso gli uffici che producono la documentazione. Cioè voi ovviamente siete condizionati dalla presenza di personale e dalla presenza e dalla disponibilità del personale, però potreste fare anche ricerca d'archivio per motivi di studio, per esigenze, diciamo, di ricerca storica, anche presso le amministrazioni attive, presso le amministrazioni produttrici, non solo presso gli archivi di Stato. Allora, se legalmente, perché poi nei fatti spesso sono così, ma se legalmente è possibile fare questo tipo di ricerca per motivi storici anche presso le amministrazioni attive, non si capisce perché non sia possibile fare una volta che queste carte vengono versate negli archivi di Stato prima del termine normale di versamento. Questo è un po' il controsenso della norma. Quindi io non vorrei che a Parma, per quanto riguarda le carte di Casarole, magari applicano questa novità del 2008. Peraltro, però, quello è un archivio privato, quindi dubito, insomma, che forse potrebbe essere intesa un'estensione anche all'archivio privato di queste norme generali sulla consultabilità dopo 40 anni, che sono la novità del 2008. No, poi alla fine comunque la consultabilità è un modo di consultare, nel senso che le persone addette in ultima analisi hanno sì, consentito, anche perché poi passava attraverso una fondazione. Comunque interessante che questa vicenda dimostra come l'Italia sia veramente un paese nel quale la linea più breve per congiungere due punti sia all'estero, quando si passa per sì, linee assolutamente sì, sì. Ma dunque, sì, a questo proposito, poi parlo degli archivi degli organismi di difesa dell'ordine pubblico. Qui, dunque, forse bisogna fare questo piccolo distinguo. La situazione mediamente, dal punto di vista normativo, sull'accesso alle fonti è effettivamente più complessa e per certi casi anche un po' più farraginosa rispetto altri paesi europei e rispetto agli Stati Uniti, per quanto riguarda soprattutto direi l'aspetto dei limiti temporali e della consultazione anticipata, la possibilità di consultare in via anticipata le carte, che in molte altre legislazioni non è prevista questa consultazione in via anticipata. Molte, cioè, le legislazioni di altri paesi europei prevedono semplicemente dei termini più ravvicinati nel tempo alla consultazione delle carte rispetto ai nostri. Termini più ravvicinati però per quanto riguarda che cosa? Per quanto riguarda l'altro aspetto, cioè quello delle carte non consultabili per la riservatezza legata alla sicurezza dello Stato. In questo caso il Codice dei Beni Culturali prevede 50 anni, prevede che i documenti riservati per motivi, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna o estera non siano consultabili per 50 anni, dalla loro data, in questo caso, dalla loro data. Quindi non 70 come i documenti di carattere personale, ma 50. Altri paesi invece prevedono un termine per questo tipo di documenti che in qualche modo riguardano gli aspetti più delicati della politica interna o estera, quindi sono degli aspetti in qualche modo confinanti con la tutela del segreto di Stato, se volete. Altri paesi prevedono per queste tipologie documentarie dei termini di 30-35 anni, quindi il nostro è un termine effettivamente lungo, piuttosto lungo. Peraltro da noi vige questa, anche per questi documenti, la possibilità di consultarli in via anticipata. Bisogna vedere se è sempre applicata, ove applicata, bisogna vedere però la disponibilità delle fonti. Allora, sotto questo aspetto, dicevo, da noi la normativa è farraginosa, è obiettivamente più complessa e farraginosa. Sotto la, per la questione invece della tutela dei dati personali, l'Italia forse è invece rispetto ad altri paesi più avanzata, perché per esempio in Germania la tutela dei dati personali presenti nei documenti varia, i termini di consultazione dei documenti che contengono questo tipo di dati varia da Land a Land. Non c'è una normativa federale che preveda per questo tipo di documenti dei termini temporali validi per tutta la Repubblica Federale. Quindi se voi andate, non so, in Renania troverete dei termini temporali, se andate nel Palatinato ne troverete degli altri, se andate nel Schleswig-Holstein magari degli altri ancora. In Francia vi è una tipologia più differenziata rispetto alla nostra e vi sono determinati dati non consultabili per oltre 100 anni, mentre da noi si arriva a 70. Quindi per questo aspetto, come dire, noi siamo più progrediti, sotto l'altro aspetto invece siamo sicuramente più arretrati. Ora mi collego alla domanda che faceva il vostro collega. Le carte degli organismi preposti alla difesa oppure all'ordine pubblico. Sono proprio queste carte, diciamo, quelle che potrebbero essere maggiormente interessate da questo aspetto di tutela della riservatezza / segretezza dello Stato E quindi questo, diciamo, termine dei 50 anni. Allora, anche qui purtroppo, cioè purtroppo è così, bisogna un po' distinguere tra quello che dicono le norme e quella che è stata la loro operatività, cioè l'operatività di queste norme, la situazione effettiva, concreta. Per quanto riguarda i documenti prodotti da organismi di difesa o preposti all'ordine pubblico, come le carte di polizia, carte della, della polizia, cioè del Ministero dell'Interno, degli organi all'interno del Ministero dell'Interno che svolgevano compiti di polizia, per quanto riguarda le carte del tutto il periodo del regime fascista, queste già nei tardi anni 60 erano consultabili. Erano consultabili in virtù di questo sistema della consultazione in via anticipata rispetto al termine dei 50 anni. E così è stato per gli anni 70, 80. Il problema è che poi col passare del tempo cosa succede? Negli anni 70 le carte del regime fascista erano passati 30 anni, 35 anni, erano in linea di massima consultabili. Oggi è ovvio che queste carte siano consultabili, sono passati ormai 60-70 anni, quindi è ovvio che lo siano, non ci sono più questi limiti per la riservatezza dello Stato, no? Non c'è neanche più il problema della consultazione via anticipata. Però cosa succede? Mancano molto spesso le carte prodotte dagli organismi preposti alla difesa o dagli organismi di polizia dei primi decenni dell'Italia repubblicana. Cioè mancano le carte degli anni 50 e degli anni 60. E allora diventa, come dire, un discorso molto formalistico e giuridicamente apprezzabile, però che non ha poi una grande incidenza nella realtà, parlare di limiti alla libera consultabilità o di accesso in via anticipata a queste carte, cioè prima del limite dei 50 anni, quindi un accesso dopo 30, dopo 40 anni, quando queste carte nei fatti non sono ancora stati versati all'archivio centrale o negli archivi di Stato, oppure non sono disponibili presso gli uffici storici dello Stato Maggiore, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che hanno degli uffici storici, degli archivi storici separati. Ecco, questo è un po' il problema. Nei fatti le carte degli anni 40, 50 e anche 60 potrebbero cominciare a essere, cioè le carte degli anni 40 e 50 dovrebbero essere consultabili, perché ormai sono passati più di 50 anni. Le carte degli anni 60 potrebbero essere consultabili attraverso questo meccanismo della consultazione anticipata. Nei fatti molto spesso non è possibile accedere alle carte perché le carte non sono conservate negli archivi storici, non sono state versate. Perché è successo questo? È successo perché dalla fine del regime, cioè dalla fine della guerra, c'è una continuità storico-istituzionale nel nostro paese. Cioè, mentre la cesura determinata dalla fine del regime fascista ha favorito il versamento delle carte negli archivi di Stato, perché gli uffici dell'Italia repubblicana in qualche modo non si riconoscevano in toto nell'amministrazione fascista, gli ambienti burocratici e politici dell'Italia repubblicana negli anni 90 vedono il loro immediato precedente negli ambienti burocratici e nei dirigenti politici dell'Italia degli anni 40 e 50, per questa continuità istituzionale. Quindi eventuali situazioni più imbarazzanti che possono essere documentate dalle carte non si vuole che vengano, come dire, così facilmente si rendano fruibili facilmente agli interessi degli studiosi. Ecco perché, per esempio, è difficile studiare certi fenomeni della criminalità organizzata nel nostro paese o il fenomeno dello stragismo che ha interessato l'Italia a partire dalla fine degli anni 60, perché queste carte negli archivi storici o non ci sono ancora o non sono consultabili. Quindi chi ha scritto su questi temi l'ha potuto fare perché l'ha fatto da una condizione in qualche modo privilegiata, ha avuto possibilità di accedere a queste carte che normalmente la generalità degli studiosi non sono accessibili. Non so, spero di aver risposto in qualche modo alle vostre domande. Bene, se non ci sono altre domande, non ci sono, vabbè. Noi ringraziamo. No, se ci sono, sono. Ci sono? Però, non vedo. Comunque, noi ringraziamo il professore per la lezione. Sappiamo che è un argomento un po' ostico, però è comunque. Abbiamo cercato di trattarlo, secondo me, comunque con chiarezza e completezza. Noi vi rimandiamo come al solito al nostro sito per la trascrizione dell'esame, la trascrizione della lezione e anche per scaricare la dispensa di questa lezione e della lezione di settimana prossima. Il sito, ve lo ripeto, è www.laboratoriolapsus.it. Prima di andare via, come sempre, passate al tavolo per la firma delle presenze e niente, ci vediamo settimana prossima. Sì, io adesso organizzerò un po' questi appunti e lui si mette in contatto con lui. Con lui.